Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, quello che è successo oggi all'Olimpico è davvero incredibile e di fatto apre il campionato. La Roma ha delle difficoltà, si era visto dopo l'infortunio di Totti, si è visto con il pareggio a Torino, al di là e al netto della questione arbitrale, e si è visto oggi la conferma contro il Sassuolo, perché pochi minuti prima del pareggio di Berardi c'era stata un'altra occasionissima per il Sassuolo. Questi sono punti pesanti. Diteci che cosa ne pensate, diteci che cosa pensate di questo 12° turno in cui il Milan è stato fermato anche a Verona in un pomeriggio che a lungo ha regalato soltanto noia, come se tutto fosse sospeso tra quello che è accaduto ieri, l'ultima di Moratti, la resa di Gagliani e l'attesa per Juventus-Napoli di questa sera. Sai cosa ti dico, caro Carlo Genta? Dimmi, Giovanni. Ti dico che la Roma è importante come notizia, perché lo abbiamo detto, riapre il campionato, ma io continuo a pensare che questo weekend passerà la storia per altro, e penso, caro Carlo, che la signorina Barbara Berlusconi abbia le palle d'acciaio, visto che ball of steel è un termine che è stato sdoganato questa settimana. La signorina Berlusconi ha le palle d'acciaio e quello che è successo ieri è storico da un certo punto di vista. Che ne pensi? Ma sulle palle d'acciaio di Lady Barbara possiamo discutere. Quello che è successo ieri è certamente storico, mi sembra che tra i due sia uscito con maggiore eleganza Gagliani. Sì, ma ha ribaltato in 140 ore, io le ho contate, ha ribaltato il Milan. Ti ricordi quante volte abbiamo detto che Gagliani era illicenziabile? Ci ha messo meno di una settimana, 6 giorni. Ma guarda, Berlusconi raramente si è privato dei suoi più stretti collaboratori, non l'ha mai fatto in nessun campo. Questa è la prima volta, ha ribaltato il Milan, sì, l'ha ribaltato in maniera un po', anche un po' troppo violenta, forse non da Milan. Il comportamento di Gagliani è stato, ripeto, più da Milan, più elegante. Tra i due non c'è mai stato un gran rapporto, credo che, insomma, ti ricorderai la vicenda Tevez, Pato, il Niet di arrivato alla famiglia Berlusconi. Sì, però la verità è che alla fine, nel momento di debolezza di Gagliani, nel momento di crisi del Milan, Barbara Berlusconi si è presa tutto. Tutti la descrivevano come una figlia di papà. A me sembra che in questa settimana Barbara Berlusconi si sia mossa come uno squalo, come il più navigato dei manager. Per sì. Questo dico, la signorina agli attributi. Sì, però non dimentichiamo che chi è il papà, insomma, quindi ha fatto la voce grossa, le è stato dato il Milan, ma difficile comincia adesso perché Gagliani è un grande dirigente. Sì, difficile, Carlo, che è già cominciato oggi a Verona. Ti faccio sentire subito Sannino, che sta parlando a Sky. Arriveranno squadre, si dice, da classifica come la nostra, però per me saranno anche più difficili, perché giocare contro squadre devono salvarsi, stesso obiettivo, diventa sempre più difficile. Però andiamo avanti, io vivo la giornata, so che non è cambiato niente anche quando si parla di panchina, di allenatori. Però io mi conoscete da poco, però sapete come la penso e come sono. Io vado avanti per la mia strada, cerco di dare il meglio di me e poi dopo, alla fine, poi dopo sono le società che decidono, però credo che, visto oggi anche il Chievo soffrire, battagliare, avere anche qualche bella occasione, credo che sia una squadra ancora viva. Ecco, insomma, mi sembra Sannino che dica che merita un'altra chance, merita di andare dopo la sosta, perché anche Sannino rischiava la panchina. Prima pagina. All'Olimpico la sindrome esiste dal 20 aprile 1986, quel giorno Roma-Lecce 2-3, quel braccino che ti viene e ti fa perdere le occasioni quando non ti sembra possibile. Questa volta la sindrome della Roma si chiama Domenico Berardi, pensate, della Juventus. Il suo gol riapre il campionato. Mette il pallone in mezzo, sul secondo palo c'è la torre al centro, Floro Flores, poi la palla rimane buona ancora per Berardi, che fa 1-1 al 94esimo, il pareggio del Sassuolo. Un anno fa il Milan aveva 14 punti ed era tredicesimo in classifica, oggi si ferma a quota 13 e al bivio tra il nulla e la speranza Allegri ha preso la prima strada. Nessuna reazione a Verona, solo un po' d'orgoglio, qualche errore, anche un po' di fortuna, insomma encefalogramma piatto, ma in fondo era pure illusione pensare che potesse essere diverso da così. Guarda il cronometro orsato, finisce il match del Bentegodi, 0-0 tra Chievo e Milan, si allontana. La vittoria del Milan non arriva fuori casa, va via Allegri. Vediamo adesso cosa succederà sulle panchine di Chievo e Milan. Vediamo adesso che cosa succederà, chissà. Altre notizie in ordine sparso. C'è il primo gol di Keita, 18 anni, segnatevi il nome, vi farà divertire. C'è la terza vittoria consecutiva del Genoa di Gasperini. A Salerno in Lega Pro c'è il calcio che si è arreso agli ultra della Nocerina, partita sospesa su ordine dei tifosi e secondo noi sono tutti colpevoli. Speriamo che questa sera Juventus-Napoli sia solo una meravigliosa festa di pallone. Ieri il duello tra Benitez e Conte ci ha riportato indietro negli anni. Una rossa fortissima, credo che la rossa più forte del campionato. Tutti sappiamo che è così e loro qualche volta dicono no perché manca questo e manca l'altro, ma sappiamo che è una rossa fortissima, Conte lo sa, lui è intelligente, lui sa che la rossa è fortissima. Il Napoli l'anno scorso è arrivata seconda in campionato, ha venduto Cavani per 60, hanno fatto una campagna per 90 milioni. Quest'anno io penso che Benitez sia talmente intelligente da capire che se il Napoli non vince lo scudetto non ha fatto niente. E noi celebriamo un record, quello di Marquez, bimbo prodigio della MotoGP, 20 anni, iridato al debutto, coraggioso, oggi calcolatore, insomma un fenomeno. Per Angel Lorenzo che vince la gara, e consegna il titolo al debuttante. Pedrosa secondo e Marquez campione del mondo. Il cabronsito c'è, ce l'ha fatta, sembra ieri che con modestia diceva non ce la farò. Tutti convocati. 800 24 00 24. Carlo, ti risparmio le discussioni sul fuorigioco di Paloschi, un millimetro avanti, un millimetro dietro, al Milan è andata male ed è andata bene, questo pomeriggio poteva vincerla, poteva perderla, adesso andremo anche a Verona per capire che cosa succede a Massimiliano Allegri, prima poi di approfondire il tema sulle questioni societarie, ti chiedo bruciapelo, la Roma si sta sgonfiando? Non lo so se si sta sgonfiando, certamente oggi è stata continuamente sul filo e ballare sul filo dell'1-0 è sempre pericoloso, non mi sembra più cattiva come prima. Sì, ha perso qualità con Totti, io stavo dando prima un'occhiata ai numeri, nelle prime 7 giornate, 7 vittorie, 20 gol fatti, 1 subito, poi Roma-Napoli, poi nelle altre 4 gol fatti, 2 subiti, qualcosa evidentemente è cambiato, ma non lo scopriamo oggi che Totti vale tantissimo per questa squadra. Carlo, ti saluto. Ciao. Ciao Carlo, noi ci dobbiamo fermare per il traffico, prima vi ricordo il numero 800 24 00 24, voglio sapere cosa ne pensate della Roma, di Allegri, di Barbara Berlusconi, di Gagliani e anche della lunghissima attesa di Juventus-Napoli. Pensate che a questo punto, se una delle due vince, va a un solo punto dalla Roma, che sembrava imprendibile. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, sta per iniziare a parlare Massimiliano Allegri, parole attesissime. Vi do un'occhiata alla classifica, il Milan a quota 13, ha davanti pensate 9 squadre, in questo momento si trova a 19 punti dalla Roma, si trova a 15 punti dalla zona Champions League. La prestazione di oggi è una prestazione difficile da interpretare perché il Milan ha provato a metterci orgoglio, è anche andata vicina a vincerla la partita, c'è un palo di Robinho clamoroso perché il brasiliano era tu per tu con il portiere del Chievo, però questa partita il Milan ha anche rischiato di perderla, una traversa di Estigaribia, l'episodio di Paloschi su cui si parlerà, anche se secondo me il signor Giallatini ha fatto bene ad andare su con la bandierina. Classifica che dice: Roma 32, Napoli, Juventus 28, Inter 25, Verona 22, Fiorentina 21 e poi ci sono tutte le altre. In coda c'è il Chievo, ultimo in classifica con 6 punti, Samp e Catania 9, Samp che deve però giocare questa sera una trasferta difficilissima con la Fiorentina. 800 24 00 24, stanno già arrivando i vostri messaggi, c'è chi scrive: questo è il mio Milan più noioso, imbarazzante e triste, e poi la Rometta si sta ridimensionando. E poi ancora: non è soltanto torpore quello della Roma, qualcuno ai piani alti non vuole che la Roma continui la sua fuga. Daremo un'occhiata per vedere anche se oggi ci sono motivi di protesta da parte della Roma dopo una settimana caldissima in cui si era parlato molto di quello che era successo 7 giorni fa a Torino. E poi ancora in tanti che criticano anche ciò che è successo nelle scorse ore al Milan. C'è chi scrive al 349-238-6666: il cambiamento nel Milan è giusto, ma il modo è stato completamente sbagliato. Barbara Berlusconi si è comportata come il più squallido degli Zamparini. No, secondo me Sebastiano si è comportata come una manager. Era il momento di spingere per trovare il cambiamento, e Barbara Berlusconi ha colto questo momento e da aprile, da giugno cambierà tutto. Sta per iniziare a parlare Massimiliano Allegri a Verona, Milan dunque fermato sullo 0-0, vediamo se riusciamo a cogliere le prime battute del tecnico rossonero. Buonasera. Sentiamolo. Intanto parto da una domanda semplice: se ci racconta le sue sensazioni alla fine di questa partita, perché l'abbiamo raccontato, poteva valere molto al di là della classifica. Ma io guardo quello che è stata la partita, i ragazzi hanno fatto una buona partita, non era semplice, abbiamo creato molto, abbiamo concesso poco, a parte il secondo tempo in quell'occasione sul tiro di Terò, sulla respinta di Abbiati, abbiamo sbagliato qualche gol, abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio. Avevamo una partita nelle gambe mercoledì in una situazione non semplice, e quindi ai ragazzi non ho assolutamente da chiedere di più, c'era solo bisogno di fare un gol, non l'abbiamo fatto, però la prestazione è stata una buona prestazione. In questi momenti qui fare gol e vincere una partita cambia sicuramente l'opinione sulla prestazione della squadra, però a questa squadra oggi non potevo chiedere assolutamente niente di più. Questa è dunque la prima lettura di Allegri di quello che è stato il pomeriggio del Milan. Lo ricordo, un pomeriggio in cui il Milan ha rischiato anche di perderla questa partita, non soltanto di vincerla, anche se a tratti nel secondo tempo c'è stato un assedio alla porta del Chievo. Andiamo a Roma, Guglielmo Timpano, Olimpico. Cos'è successo alla Roma, Guglielmo? Buon pomeriggio. Cosa è successo alla Roma? Una domanda assolutamente da un milione di euro, e la rivolgo direttamente al collega del Corriere della Sera, Gianluca Piacentini, che è qui al mio fianco. Gianluca, cosa è successo alla Roma? 1-0, 94esimo arriva quel gol in mischia del pareggio con due punti persi. È successo che la Roma non è riuscita a chiudere una partita che poteva chiudere tranquillamente nel secondo tempo, comunque nella prima fase del secondo tempo. E alla fine è stata punita da un Sassuolo caparbio che sta attraversando un buon momento di forma, se è vero che ha conquistato 8 dei suoi 10 punti nelle ultime 5 giornate con 2 vittorie in trasferta, quindi è una squadra che solo sulla carta doveva venire qui all'Olimpico a fare la vittima sacrificale, che invece si è venuta a giocare bene la sua partita riuscendo a trovare un pareggio su cui in pochi credo avrebbero scommesso. La Roma ha avuto per la seconda partita consecutiva un calo, credo, di concentrazione, ma stavolta anche mischiato ad un calo fisico, perché nel finale di partita il Sassuolo correva, la Roma no, quindi credo che Garcia un po' durante questa pausa dovrà lavorare per cercare di rimettere le cose a posto. È indubbio che è una squadra che non sta attraversando neanche un grandissimo momento dal punto di vista della fortuna, perché oggi Boriello, che era uno dei pochi attaccanti rimasti a disposizione, si è fatto male anche lui dopo 20 minuti. Se la Roma dovesse giocare fra 3 giorni non avrebbe Boriello, non avrebbe Totti, non avrebbe Gervinho, non ha mai avuto destro, quindi è sicuro che questa pausa arriva al momento giusto per consentire al tecnico francese di provare a rimettere le cose a posto. Guglielmo, mi interessa capire se esiste un problema anche di convinzione, come se il pareggio di Torino avesse tolto un po' dello scudo di imbattibilità a questa squadra che, lo abbiamo detto prima con i numeri, da quando si è fatto male Totti ha cominciato a giocare e vincere in modo diverso, poi però ha smesso anche di vincere. Assolutamente, questa considerazione sulla convinzione della squadra era certamente una considerazione che avevamo anche avuto modo di fare con i colleghi prima della partita, quanto avrebbe inciso dal punto di vista psicologico il pareggio di Torino sulle convinzioni di una squadra che nonostante gli infortuni andava avanti anche per quell'inerzia e per quella voglia di voler raggiungere i record che stava di volta in volta raggiungendo. Ecco, giro questa domanda a Gianluca Piacentini, se mi consentite, da studio, aggiungendo a corollario della domanda stessa, aggiungi, c'è anche un problema arbitrale, nel senso che a un certo punto l'Olimpico ha rumoreggiato, parlo con una firma autorevole del Corriere della Sera, che è il più autorevole giornale in Italia, quindi chiaramente il nostro Gianluca Piacentini ci può aiutare a capire se effettivamente qualcosa dal punto di vista arbitrale contro il Torino, ma anche oggi, c'è stato. Ma contro il Torino credo che sia innegabile che la Roma sia stata penalizzata da alcune decisioni arbitrali di Banti, non tanto magari nell'occasione del gol del pareggio quanto in occasione del mancato rigore concesso su Pjanic nel finale di partita. A mio avviso, più che soffermarmi su un episodio specifico che immagino farà parlare, che è l'ammonizione di Ljajic quando forse probabilmente potevano esserci gli estremi del rigore, io mi soffermerei su una direzione di gara insufficiente nell'arco dei 90 minuti, perché mi è sembrato che Giacomelli non sia stato in grado di gestire una partita che in realtà è una partita semplice, l'ha complicata un po' lui facendo giocare troppo, distribuendo cartellini gialli un po' a casaccio e non ha mai avuto il polso di una partita che sembrava semplice da dirigere, almeno per quanto riguarda la correttezza in campo che c'è stata da parte di tutte e due le squadre. Poi sull'episodio credo ci saranno tante moviole. Sì, avremo modo di vederla a lungo, Guglielmo, anche se io sono scettico sul vento del nord tornato a soffiare, qualcuno lo scrive 349-238-6666 o via Twitter @ tutti convocati per fermare la Roma e la sua fuga. Guglielmo, ti saluto, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie Guglielmo Timpano. Andiamo al Bentegodi di Verona, dove c'è Andrea Etrari. Ciao Andrea. Ciao. Ti faccio però sentire le ultime battute di Allegri a Sky Sport. Del Milan. Allegri, lo possiamo spiegare questa difficoltà di fare gol anche con il fatto che se c'è Balotelli sembrava il titolare, poi invece a Barcellona è rimasto in panchina e ha giocato Robinho, oggi ha giocato Matri, c'è questa difficoltà da parte sua di trovare l'attacco ideale. Secondo me la difficoltà c'è anche nel creare il gioco, perché il Milan oggettivamente crea poche occasioni. Sentiamo Allegri. Innanzitutto ricominciamoci a dare del tu, perché voglio dire, se mi cominci a dare del lei già sono vecchio, comincio a essere vecchio. Va bene, dipende poi a seconda quindi, di quando vi amate molto o un po' meno vi date del tu o del lei. No, ormai ho 11 anni che alleno, quindi posso quasi anche smettere. No, l'attacco più ideale, sai qual è? Quando vinci una partita allora trovi l'attacco ideale, ma non è che li sto cambiando. Balotelli oggi era squalificato, Matri ha fatto una buona partita, soprattutto il secondo tempo, è stato sfortunato, ha lavorato molto per la squadra. Ha giocato molto di sponda, ha mandato anche nel primo tempo dentro due o tre volte Poli, una volta Kakà. È normale, se non fai gol poi dopo tutto viene nel dubbio e quindi questa è la verità. Non lo so, a me convince poco. 800 24 00 24, Andrea Etrari da Verona. Eccomi. Cosa succede ad Allegri? L'ho visto abbastanza tranquillo, al di là insomma di qualche piccolo battibecco di post partita. Mi sembra tranquillo, consapevole di non essersi giocato oggi la panchina del Milan. No, infatti, anche secondo me il discorso è che c'è la sosta di mezzo, quindi quando c'è la sosta di mezzo non si sa mai cosa possa succedere. Di sicuro non succederà niente oggi, i prossimi giorni si vedrà. Oggi mi è parso un Milan a tratti in difficoltà, difficoltà psicologica, ed era difficile chiedergli qualcosa di diverso. Mi racconti un po' quali sono le facce oggi? Abbiamo visto quella di Gagliani in tribuna, una faccia rabbuiata, una faccia di comunque di qualcuno consapevole delle difficoltà attraversate. Sì, infatti le facce non sono certo distese, quelle dell'ambiente rossonero. All'intervallo sia Braida che Gagliani, il figlio, sono filati via proprio, insomma, direttamente negli spogliatoi. Alla fine non li ho visti, però effettivamente la tensione c'è, inutile nasconderlo, e chissà nella stanza dei bottoni cosa si andrà a decidere nelle prossime ore. Andrea, torniamo da te dopo meteo e pubblicità. 800 24 00 24, Adriano da Treviso. Adriano, salve, buonasera a voi. Buonasera. Ascoltatori, dica. Niente, io intervengo per il caso Milan. Io ho appena sentito l'intervista di Allegri e io lo reputo anestetizzato dagli traumi degli ultimi tempi, perché veramente non ragiona neanche più bene, oltre che non allenare bene, secondo me. E un grande applauso a Barbara Berlusconi, che sembra stia prendendo in mano la questione. Il Milan va ribaltato come un calzino, va cambiato completamente, va messo alla guida una persona che ci abbia le palle, che faccia girare questi uomini, che sono uomini pagati fior fior di quattrini, e devono essere. Il Milan è deputato a essere una squadra fra le prime 5 del campionato, e si trova in 13 partite e 13 punti, è una cosa assurda, non esiste. Io sono tifoso del Milan da 41 anni, ho 52 anni, sono tifoso del Milan da 41 anni, non ho mai visto un Milan così, neanche quando è stato in Serie B. Sì, anche se Adriano, io concordo con lei, Barbara Berlusconi ha fatto un'operazione che si riteneva impossibile, poi però per riportare il Milan dove l'ha portato Gagliani insieme a Silvio Berlusconi per tanti anni, servono gli investimenti, e in questo momento ho l'impressione che gli investimenti non ci siano, non ci sono stati con Gagliani e probabilmente nell'immediato non ci saranno nemmeno con Barbara Berlusconi. Ci fermiamo qui però. 800 24 00 24, meteo pubblicità. Silvio Berlusconi sarà sempre mio presidente, forever. Barbara Berlusconi è una ragazza di meno 30 anni, senza alcuna esperienza, e viene messa a capo del Milan. Ma stiamo scherzando, Gagliani forever? Oppure ancora, è vero, Barbara Berlusconi si è comportata da manager, ma non credo che suo padre abbia mai licenziato con un'ansa i suoi collaboratori. Giulio da Roma, 800 24 00 24. Giulio, buonasera. Sì, salve, buonasera. Prego. Innanzitutto vorrei fare un plauso a Barbara Berlusconi, perché è il momento di cambiare il tutto nel Milan, quindi finito questo ciclo se ne deve fare un altro, quindi spazio, anche se non è giovanissima, comunque ai giovani e a Barbara Berlusconi. Ha 29 anni, più giovane di così a questo livello io credo sia impossibile. No, perché oggigiorno superati tra i 29 e i 30 non si sa se chiamarli giovani o meno. Io ho 30 anni, sono passato alla fascia che non sono più giovane. È giovane, giovane. Senta, e inoltre volevo, se mi consente, volevo fare un plauso passando alla sponda nerazzurra di Milano, al capitano Zanetti, esempio per tutti, giovani e meno giovani, calciatori e non calciatori, perché insomma ieri sera è tornato in campo dopo un infortunio molto grave, ha dimostrato ancora di essere un grande capitano, un grande uomo e un grande calciatore. Sottoscrivo. Marco da Mondragone. Buonasera. Ciao, buonasera. Prego. Niente, condivido più o meno con te il fatto che Barbara Berlusconi abbia fatto bene a dare un input, a dare una spallata. Sì, al padre più che altro, alla società, ma soprattutto al padre, anche se ormai ha una certa età. Perché però poi addossare tutte le colpe, esagerato quello che dice, alle palle d'acciaio, è un po' esagerato. Però secondo me manco addossare tutte le colpe a Gagliani, che comunque, parliamoci chiaro, è un manager che ha fatto grande il Milan grazie ai soldi di Berlusconi, e che da due anni ha avuto l'input dal Silvio Berlusconi, dopo la situazione del Lodo Mondadori, di dover far rientrare parecchi milioncini. Ma io sono d'accordo con lei, Marco, però secondo me i due discorsi sono distinti. Secondo me ci vuole rispetto per quello che è stato e per quello che è tuttora Gagliani per il Milan, compresa questa fase in cui la proprietà ha chiesto investimento zero. Allo stesso tempo però, quello che una settimana fa, in queste ore, poteva sembrare il capriccio di una 29enne probabilmente con un atto poco studiato anche dal punto di vista comunicativo, una settimana dopo ha prodotto come risultato il terremoto che stiamo leggendo, che ci apprestiamo a vivere e che nell'arco di 6 mesi la porterà al comando del Milan. Diciamo che evidentemente non era poi così avventata la sua uscita di una settimana fa. Torniamo a Verona, Andrea Etari. Eccomi. Eccoti Andrea, sei con un ospite? Sì, sono con Nicola Cesare della Gazzetta, al quale puoi parlare direttamente. Nicola, ciao, buonasera. Sì, buonasera a te, ascoltatori. Pare di aver capito che Allegri arriverà dopo la sosta. Ci aiuti a interpretare quelle che sono le facce di questo dopo partita? Allegri ha detto ci è mancato soltanto il gol per vincere. Io ho detto il Milan ha rischiato anche di perderla. Mi è sembrato il Milan attorcigliato di questo periodo di stagione. Sì, veramente un brutto Milan. Primo tempo assolutamente inespressivo, non sono riuscito a fare nemmeno una manovra degna di questo nome, uno dei più brutti primi tempi in assoluto degli ultimi 20 anni che ho vissuto sui campi di calcio della Serie A, con palloni a campanile, sembrava una partita di prima categoria. Nella ripresa ci hanno messo almeno un po' di anima, di cuore, certamente Robinho ha portato vivacità, un po' di imprevedibilità in avanti, ha sfiorato un gol, lì è stato sfortunato perché ha preso un palo. Ci sono state un altro paio di situazioni che potevano dar vita a qualcosa di a sbloccare il risultato. Ma ti sembra questa una squadra che reagisce agli impulsi che gli dà il tecnico? No, sì, questo sì, c'è da dire che però il Chievo, che è attualmente ultimo in classifica, per primo nella ripresa avrebbe dovuto far gol e lì dopo una parata di Abbiati importante sulla respinta non si capisce Rigoni come abbia fatto a non trovare la porta che era da pochi metri, poi ricorrevano verso a giocare a pallone, insomma i piedi ce li ha. Sì, invece l'ha messa fuori. L'ha messa fuori. Io ho l'impressione, ti dico come la penso, sì, che questo Milan faccia fatica a dare dei segnali che abbiano una continuità, ma intendo i segnali, anche i segnali di empatia con Allegri. Questa è una squadra capace di rimontare 2 gol in 2 minuti, capace di offrirci spettacoli come quello di sabato sera a San Siro contro la Fiorentina, dove al Bar Sport direbbero giocano contro l'allenatore. Oggi 2 tempi completamente diversi dal punto di vista dell'approccio, dell'orgoglio. È una squadra difficile da leggere in questo momento. Sì, bisogna anche dire che comunque col 4-3-3 sono andati meglio, cioè quando loro hanno potuto sfruttare un po' tutto il fronte d'attacco, nel primo tempo erano bloccati, nel secondo tempo con Robinho che svariava, portava velocità, insomma, nel primo tempo erano prevedibili, lenti, scontrati, insomma, il secondo tempo è andato meglio, però hanno di fronte l'ultima in classifica, questo Chievo ha evidenti limiti tecnici, è la versione minore di tutte quelle che abbiamo visto finora in Serie A. Quindi non è che avevi di fronte il Real Madrid e dici vabbè sono contento che ho sfiorato il successo, hai fatto 0-0 con l'ultima in classifica, a me non mi pare che ci sia tanto da essere soddisfatti. No. Però abbiamo visto soddisfatto visto secondo Galliani. Me era Allegri per il pericolo scampato, dicevi? Ma abbiamo visto Galliani? Abbiamo visto un Galliani abbastanza sereno, si è intrattenuto con un gruppetto di cronisti, insomma ha detto delle cose insomma anche esagerate in ottimismo, ci è mancato solo il gol, abbiamo visto una squadra viva, insomma sono le cose che dici proprio quando i momenti sono difficili e vuoi far vedere che invece tutto va bene. Sì, grazie Nicola Cecere. Grazie Nicola Cecere, grazie anche ad Andrea Etrari. 800 24 00 24, Fabio da Modena, buonasera. Buonasera. Prego. Ah, niente, sono tifoso milanista, vorrei dire a quel signore di 52 anni che da 41 anni che tiene il Milan, sì, che mercoledì noi giocavamo a Barcellona, non giocavamo a Seregno o a Monza o a in Brianza, giocavamo sempre a Barcellona, e invece di cambiare Galliani ci cambiassimo Berlusconi, che oramai soldi non ne ha più, perché Galliani purtroppo deve fare nozze con i fichi secchi. Abbiamo vinto tantissimo, ha dimostrato che quando c'erano i soldi si vinceva sempre, adesso tutti gli anni in giugno la Fininvest non tira più fuori neanche 100 lire, abbiamo dovuto vendere Ibrahimovic, abbiamo dovuto vendere Thiago Motta per mettere 50 milioni di euro da pagare, tutti gli anni la Fininvest metteva 50 milioni, mi fa piacere che Barbara Berlusconi parli o meno ma però è una ragazza di 29 anni che sì, si chiama Barbara Berlusconi. Però insomma cerchiamo anche di essere onesti e non andare sempre contro. Dopo dobbiamo trovare un capo espiatorio, non è colpa di Allegri, non è colpa di nessuno. Berlusconi 50 milioni di euro all'anno, i suoi figli gli hanno detto papà non ne abbiamo più, finito, quindi non riusciamo, c'è un Real Madrid che si permette di pagare 100 milioni un bail e lo tiene in panchina, quindi questa è la realtà. Moratti dall'altra sponda non riusciva più, ha cercato un socio, giusto o sbagliato che sia, per l'amor di Dio, però oramai qua si corre a certi livelli. Galliani ha fatto, può anche aver fatto il suo tempo, però cioè, gli ultimi anni lui deve fare prima vendere, poi coi soldi deve cercare di andare a prendere, solo per andare a comprare un giocatore deve diventare matto, deve trovare chissà qual è alchimia perché i soldi non ce li si ha, dopo magari glieli diamo sotto forma di pubblicità, sotto forma di... Sì, quindi, Fabio, quando... va bene, tutto giusto, io dico trovarne un altro in questo momento che venga nel Milan, metta i soldi che Berlusconi, secondo me, legittimamente in questo momento non vuole e non può mettere, discorso che è ovviamente allargabile anche a Moratti sulla sponda Inter. Sentiamo Garcia. Prova a rientrare Keita. No, questo è, sentiamo Garcia dopo il pareggio Roma-Sassuolo. Quando non segniamo il secondo gol, può succedere questa cosa, un colpo di sfortuna, un calci piazzati dall'avversario e fino alla fine, quando si vince solo 1-0, non siamo sempre tranquilli sul campo, però adesso fuori dal campo siamo tranquilli, siamo ancora primi, abbiamo giocato una bella partita, ancora più nel secondo tempo che nel primo, questo per me è lo più importante, che giochiamo bene, perché se giochiamo bene vinceremo ancora partite. Il dato più importante lo abbiamo evidenziato con le immagini, le tante occasioni da gol costruite da parte della Roma. Negli ultimi 20 minuti, due o tre situazioni, però Garcia, siete stati un po' sbilanciati, avete perso un pochino di equilibrio, è d'accordo? Ha visto qualche momento di poco equilibrio? Ma ho visto solo un'azione del Sassuolo pericolosa su un errore nostro. Sì, questo è Garcia, mi sembra... Ciao Pier, intanto. Oh, ciao, come va? Mi sembra che abbia accusato il colpo, Rudy Garcia. Questo gol di Berardi al 94esimo. Difficile non accusarlo. Io l'ho chiamata la sindrome del 20 aprile 1986, Roma 2 Lecce 3. Mi sembra un po' presto, però è chiaro che prendere gol al 94esimo dopo una serie di partite in cui si diceva giustamente che la Roma era stata cinica, anche fortunata in alcune circostanze, mi sembra nelle ultime due partite, fra episodi, anche qualche episodio arbitrale, per esempio sto vedendo il post partita di Premium, per Paparesta c'è fallo su Bradley sull'azione dell'1-1, ovviamente non mancherà occasione di parlarne in queste ore. È stata un'azione abbastanza confusa in mezzo all'area di rigore. Anche quelli del Sassuolo hanno protestato. Assolutamente. No, però voglio dire, il dato. Però non possiamo ridurre ancora Non riduciamo anche perché tre minuti prima c'era stata un'occasione simile, cioè completamente diversa a quella di cui parlava Garcia, che è stato un contropiede abbastanza casuale, nato da un errore di Burdisso, ma comunque un'occasione concessa a Floro Flores. E soprattutto la Roma non ha chiuso la partita. Per cui poi alla fine tutto si riduce alle tre occasioni di Rijic nel secondo tempo, nelle quali soprattutto l'ultima veramente sembrava più facile segnare che sbagliare. Traffico. Scusa, non ho capito. Scudetto in francese, come lo traducete? La vittoria del titolo? Non c'è una traduzione. Scusa che non capito, c'è un'altra domanda, non ho capito la domanda. Caro Pier, hai visto la faccia di Galliani oggi in tribuna? Galliani e Braida, il Milan che se ne va, perché questo pare essere l'esito di questo scontro durato 140 ore. E che ha vinto Barbara Berlusconi, io ho letto in apertura, la signorina agli attributi li ha dimostrati in questa settimana. Ma sicuramente, fra l'altro, insomma, alla luce delle letture che abbiamo dato in queste ore dopo il colloquio di ieri, l'incontro di Arcore, anche la presa di posizione di domenica assume ovviamente un altro significato, perché qualcuno aveva pensato che fosse un capriccio, invece in realtà c'erano i presupposti per poterlo fare. Vedremo, io mi fido ovviamente delle ricostruzioni che ho letto in queste ore, però so so che il calcio è materia molto liquida e quindi può cambiare di settimana in settimana, e credo che Berlusconi, al di là di tutto, si trovi veramente stretto fra due affetti molto forti. Uno chiaramente è un affetto familiare in senso stretto, l'altro è un affetto quasi familiare, perché insomma il legame che c'è con Galliani è un legame fortissimo, quindi non credo che, appunto, come lo stesso Galliani ha sottolineato ieri, finirà il rapporto. Magari cambieranno delle cose, degli equilibri. Io mi fido di quello che ha scritto Carlo Laudisa. Ciao Carlo. Ciao, numero uno della Gazzetta dello Sport in queste cose. Ieri, caro Carlo, caro Pierre, è stato un sabato però particolare, secondo me, per il calcio italiano, di sicuro per il calcio milanese. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Io sono legato a Silvio Berlusconi per sempre, che se mi occuperò di calcio tutta la vita sarà per il Milan, se mi occuperò di altre cose saranno altre cose, come prima mi occupavo di altre cose, ma non... Insomma, Silvio Berlusconi è il mio presidente da sempre, lo è dal 79 quando l'ho conosciuto, ed è un'avventura che è un'avventura per tutta la vita, cioè non è previsto che si interrompa. Ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milan e Benfica, Milano che fatica. La proprietà della squadra di calcio è loro, cioè... E sono i tifosi che hanno la proprietà della squadra di calcio vera. Poi dopo c'è della gente come me o altri che passano per caso, arrivano, hanno un certo compito. Ma chi veramente ha in mano la società, tiene la società, supporta la società, la fa vivere, sono i tifosi. Mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco. Mi fido di Carlo Laudisa perché oggi, caro Pier, sulla Gazzetta dello Sport ha descritto quello che sarà il Milan della prossima stagione, ci ha messo anche nomi e cognomi, ovviamente non tutto è deciso, giusto Carlo? No, Paolo tutto, Maldini, tutto, Albertini. È tutto in grande evoluzione. Michele Uva. Complimenti per il bel collage che hai prospettato. L'ha fatto Giorgio De Luca, che è anima e autore di questa puntata. Prego, pur essendo in ansia da prestazione, quindi, perché c'è Juve Napoli. Quindi, è in ansia, è in ansia da prestazione assoluta, Giorgio De Luca. Aggiungo che evidentemente a questo non credo che Marcello Moratti ce l'abbia detto poi se è stato registrato, però c'è quell'altra frase di saluto da Adriano Galliani, di omaggio al grande rivale di questi anni, no? Sì, gli ha espresso solidarietà. Guarda che ieri è stata una giornata epocale, appunto, per epocale per il calcio milanese, quindi ecco perché mi complimento con questo collage, perché ha unito l'uscita di scena di due grandi personaggi, no? Con caratteristiche differenti, innanzitutto perché Massimo Moratti ci ha messo i soldi suoi e Adriano Galliani li ha gestiti, quelli di Silvio Berlusconi, quindi sono due profili differenti, ma sul piano dell'immagine li accomunerei, perché comunque salutiamo due grandi personaggi. Succederà tutto tra aprile e giugno, hai scritto oggi. Sì, ora non so esattamente per quando sarà fissata la data dell'assemblea dei soci, in genere a fine aprile, e sarà quello lo snodo poi ufficiale di tutto quello che stiamo vivendo e che seguiremo con attenzione e cercheremo di essere il più precisi possibile tutti quanti, però l'articolo di oggi che ho scritto per la Gazzetta credo che dia la sensazione di quanto fermento ci sia nella galassia rossonera, perché quella di ieri è un atto d'amore di Adriano Galliani verso Silvio Berlusconi e verso il Milan evidentemente, ma quel se nella frase in cui lui evidentemente non ha detto a casaccio è un se che significa addio, perché lui certamente avrà un ruolo al fianco di Silvio Berlusconi in un'attività che ancora non so quale sia, la conoscono solo loro tre: Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Federico Confalonieri, perché sicuramente hanno già delineato il futuro di Adriano Galliani, ma non potrà più essere nel Milan, perché certamente Barbara Berlusconi, avendo contattato Paolo Maldini e iniziato quello che è il lavoro di setaccio per comporre una nuova squadra, sta cominciando a mettere mano a quello che sarà il nuovo Milan. È già nel futuro. Ecco, tu non vedi, Carlo, delle variabili, delle possibili sorprese, dei possibili colpi di scena in questi mesi? Insomma, la lettura è abbastanza chiara, no? Io, quello che ieri. Però da qui ad aprile possono succedere cose, o no? Con il rientro dei Galliani no. Le sorprese sono legate ai nomi che accompagneranno, ai nuovi protagonisti della nuova era rossonera, perché, ripeto, nell'atteggiamento alla fine ha deciso Silvio Berlusconi, però non va sottovalutato il fatto che questo incontro l'ha chiesto lui, avendo evidentemente capito che non c'erano più i presupposti per costruire qualcosa insieme a Barbara, perché ha dedotto in maniera netta quanto quel dispaccio ANSA di domenica scorsa, cioè di una settimana fa esatta, fosse una lapide sulla sua avventura al Milan. Carlo, abbiamo meno di un minuto, ti faccio due domande flash, ti chiedo due risposte sì o no. Sì. La prima, Gagliani può avere un futuro in Lega Calcio? No, io lo escluderei. E la seconda domanda è questa: oggi su internet si scrive che in realtà Maldini non aspetterebbe, sarebbe ancora più vicino al Paris Saint-Germain. Io ci credo poco, tu come la vedi? Io vedo che la posizione, il contatto con Paolo Maldini c'è già stato, la trattativa è stata avviata, ma la concorrenza del PSG la vedo temibile, perché anche il fatto che adesso il Milan stia cercando un direttore sportivo che lo voglia scegliere Barbara, non so se questi elementi possono indurre Paolo Maldini ad accettare questo mandato che ancora non è stato ben determinato, quindi non do per scontato che Paolo Maldini sia la. Quindi potrebbe comunque finire a Parigi. Grazie Carlo. Grazie a voi, ciao, un saluto a tutti. Ciao. Grazie a Carlo Laudisa, ciao. Ci fermiamo, ci sono le informazioni, poi torniamo, parliamo anche della vergogna di Salernitana Nocerina. Cerchiamo di capire bene che è successo. Arrivederci e grazie, baci e pace bene a tutti. Con la Juventus è gioco forza un misurarsi continuo, perché alla base di tutto c'è un continuo sfottò, quindi giochiamo anche con gli sfottò. Attenzione, Tevez può andare col destro, dribbling, Tevez! Carlos Tevez si inventa il quinto gol in campionato. Dentro per Hamsik, in area, Hamsik, prova a passare, Higuain, Gonzalo Higuain, il primo centro al San Paolo, del Pipita. Insigne, prova Insigne, che bellezza, che splendido gol di Lorenzo Insigne. Un calibro bene, attenzione a Pogba, da lì può calciare, Pogba, rete, un gol incredibile. Fa esplodere lo Juventus Stadium, un gol da fenomeno. Cari napoletani, mi chiedono il cuore per tutto sto burdello che è successo, ma io non volevo far più accollare a nessuno, è solo pallone, state per buoni, state per buoni. E speriamo, caro Pier, che almeno stasera intanto ci divertiamo, perché tra oggi e ieri io non mi sono divertito molto. Poi che sia solo una partita di calcio, perché oggi è una giornata brutta per il calcio italiano. Adesso, se vuoi ne parliamo, ti do solo un aggiornamento da Verona. Sì. Pare ci sia stato un contatto telefonico tra Gagliani e Berlusconi. Il Milan va avanti con Allegri, malgrado il pareggio a reti inviolate contro l'ultima in classifica. Speriamo che questa sera tante di queste brutture siano cancellate e soprattutto sia cancellata la vergogna di Salernitana Nocerino. Se vuoi lo raccontiamo in 30 secondi. Derby di Lega Pro, durato 20 minuti, gli ultra della Nocerina, a cui era stata negata per questione di ordine pubblico la trasferta, hanno minacciato i giocatori, hanno detto senza di noi voi non giocate, lunghe trattative col questore, partita iniziata, l'allenatore della Nocerina in 3 minuti ha effettuato i 3 cambi. E poi magicamente nei 20 successivi 5 giocatori della Nocerina infortunati, e quindi arbitro che è stato costretto a sospendere la gara. C'è una dichiarazione del direttore sportivo della Nocerina che dice che si sono fatti male perché non avevano fatto riscaldamento, che fa abbastanza, non so se ridere, insomma, ma è chiaro che lì siamo in una situazione di ricatto. Mi metto anche umanamente nei panni di chi oggi si sarà sentito ricattato, chiaramente con l'incolumità fisica, con le minacce non si scherza, per cui non mi permetto di e al tempo stesso non so dirti in realtà se ci fossero meno gli estremi per poter vietare la trasferta, no? Perché beh, poi era una partita a rischio. Su questo onestamente noi siamo ignoranti, e almeno io non ho elementi, e mi dispiace sempre, mi dispiacerà sempre tutte le volte che ci sarà un provvedimento di questo tipo, no? L'idea che una tifoseria non possa andare in trasferta mi porta sempre istintivamente a solidarizzare con chi vede un proprio diritto negato. Quindi sul fatto che i tifosi della Nocerina forse in un mondo ideale debbano avere il diritto di andare a Salerno non ci sono dubbi, però poi quello che è successo dopo è veramente assurdo, anche perché poi fa il giro del mondo, perché insomma è l'ennesimo episodio che vediamo a ogni livello, dalla Serie A alla Lega Pro, insomma da realtà più o meno importanti e blasonate ad altre che lo sono meno, di cedimento nei confronti a dei ricatti. La sostanza, la sintesi è molto molto semplice. Abbiamo un amico che ci chiama da Salerno, 800 24 00 24. Alfonso, buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Sì. Come diceva il signore che stava parlando poco fa. Sì, Pierluigi Pardo. Ciao, ciao Alfonso. Pierluigi, sì, che saluto e lo vedo la sera. Ciao. Ciao Pierluigi, dicevo, tutti dappertutto sto sentendo la condanna ai giocatori della Nocerina. La Nocerina l'anno scorso era fallita, quindi è ripartita con quasi tutti i giocatori poco più che ventenni. Io mi metto nei loro panni, io abito sia vicino a Salerno sia vicino a Nocera e vivo le due realtà. Posso capire e mi metto nei loro panni quello che è successo oggi. Si sono sentiti ricattati, sono ragazzini più che ventenni, magari qualcuno è pure padre di famiglia. Posso capire, non lo so, perché si parla della condanna ai giocatori della Nocerina, 6 mesi di sospensione. Sì, sono pure d'accordo, però qualcuno si è messo nei loro panni, come ha detto Pierluigi. No, ma no. Alfonso, Pier, cioè, è tutto vero, questa è una battaglia che noi portiamo avanti da tempo. Per me quello che è successo oggi è grave, così come è grave far entrare gli ultras nelle sedi dei ritiri, dargli delle legittimazioni che non devono avere. Il problema è che oggi il calcio non è riuscito a far giocare una partita che si sapeva a rischio, e ci ha messo delle ore, ha schierato le sue forze migliori anche a livello di ordine pubblico e non siamo riusciti a giocarla. Ci deve essere una risposta, magari la solidarietà umana e questa, però, premessa che ho fatto, che confermo, non è che la rinnego, questo volermi mettere nei panni, poi appunto come diceva l'ascoltatore, di chi evidentemente si è sentito minacciato, e se qualcuno si sente minacciato comunque va protetto, e non lo dobbiamo proteggere noi, lo deve proteggere lo Stato, no? Da questo punto di vista. Però questo non toglie che poi la pagina di oggi sia una pagina vergognosa, una pagina che fa il giro del mondo, una pagina che rappresenta l'ennesimo cedimento nei confronti del ricatto di alcuni. Poi ripeto, in assoluto, assolutamente, probabilmente c'erano i presupposti, ma non siamo noi per poterlo decidere, per sapere se ci fossero o meno i presupposti per poter mandare in trasferta i tifosi della Nocerina a Salerno. Noi sogniamo, credo, tutti degli stadi che siano aperti, però nei quali ci sia anche la certezza del diritto, cioè degli stadi nei quali appunto non ci siano limitazioni della libertà individuale dei tifosi, che spesso vengono costretti a vere e proprie vessazioni, perché stare nel settore ospiti, lo sappiamo, significa magari uscire 2 ore e mezza dopo che finita la partita, gabbia, affrontare tutta una serie di restrizioni della libertà individuale che sono clamorose. Detto questo, però, se qualcuno si comporta male, lo stadio non può diventare una zona franca dove le cose vengono perdonate. Se uno tira una bomba carta a Piazza del Popolo a Roma o in Piazza del Duomo a Milano, penso che qualcosa succeda, la stessa cosa deve succedere negli stadi. È tutto qui il discorso, secondo me. E quindi poi oggi ci può essere un elemento, diciamo, di solidarietà individuale per questi ragazzi, perché io lo posso anche capire, posso anche mettermi nei panni, però il dato che rimane è un dato di una tristezza, è impossibile che non succeda niente, di una vergogna incredibile. Davide da Rimini, 800 24 00 24. Davide. Beh, io posso esprimere una grande tristezza sulla situazione. Siamo tristi, però, tutti, Davide. Troppe volte si è detto sono soltanto 2, 3, 10 cretini. E questo è il risultato. No, ma questo, Davide, lo dicono loro. Questo lo dice chi in fondo preferisce che le cose vadano avanti così. Ma appunto. Ma qui c'è un problema. O lo vogliamo risolvere o non si risolverà mai. Certo. Lo sappiamo tutti, ci sono degli interessi di certe frange di tifoserie, di biglietti gratis, di gestione di merchandising, e facciamo finta che non c'è niente, diciamo subito è una vergogna, poi dopo 2 o 3 giorni siamo di nuovo da capo. Sono 20 anni che va avanti questa cosa qui, e secondo me non c'è la volontà oppure ci sono degli interessi che non va cambiata questa cosa. 800 24 00 24, perché in questa vicenda di Salerno, Pier, secondo me non bisogna perdere di vista il punto centrale, cioè che oggi a Salerno non si è giocato su imposizione degli ultra, perché poi che la Nocerina ha anche perso una partita, perché sì, poi finisce 3-0 a tavolino, non ma c'è questo secondo me è un dettaglio in questo, sì sì, no, è un dettaglio, però voglio dire, alla fine non si è giocato e non si è giocato e diciamo alcuni tifosi hanno detto alla squadra di non affrontare la partita, dandole comunque un danno sportivo, perché poi questi tre punti alla fine magari la Nocerina poteva anche averne bisogno, no, eventualmente, quindi no, è una, e poi insomma la teatralità, il modo nel quale tutto questo è successo, se vuoi anche la fantasia, vogliamo fare una battuta sopra, c'è stato quasi del talento nel riuscire a inventarsi una cosa del genere, ovviamente è un talento amarissimo, però insomma la drammaturgia di tutto questo fa sì che questa notizia inevitabilmente abbia fatto il giro del mondo. Insomma, alle 13 era appena successo il TG1 delle 13, che non è che si occupi di calcio in maniera così, soprattutto non di Lega Pro, ha dato Salerno la notizia, no? E questa cosa fa il giro del mondo, come la famosa consegna delle maglie nella partita del Genoa, come il derby sospeso di tanti anni fa. Sono tutte situazioni che alla fine finiscono per rovinare l'immagine del nostro calcio, ci rendono inevitabilmente più poveri e più deboli agli occhi del mondo. Continuiamo a farci del male da soli, secondo me ce lo facciamo anche con le parole dopo che accadono queste cose. Tu hai ricordato cosa ha detto Pavarese, di S della Nocerina: si sono infortunati a causa del mancato riscaldamento, c'è un sindaco che ha protestato per la misura che negava la trasferta agli ultra. Sentiamo un pezzettino di Francesco Ghirelli, l'ha intervistato il nostro Dario Ricci, direttore generale della Lega Pro. Ghirelli: questi fatti che sono successi nella partita hanno arrecato un danno gravissimo di proporzioni inusitate al calcio e alla Lega Pro. Noi non possiamo rimanere inerti, quindi la nostra azione sarà che ci costituiremo parte civile in tutti i procedimenti penali che verranno aperti e contemporaneamente noi procederemo sul piano civilistico per risarcimento dei danni. In questa vicenda ci sono stati da un lato i delinquenti che hanno fatto minacce, di cui le immagini delle televisioni hanno mostrate in maniera indelebile, e però c'è stato nello stesso tempo un atteggiamento di chi è stato in campo, che ha fatto delle sceneggiate, e noi riteniamo che ci auguriamo, nel pieno rispetto dell'autonomia della giustizia penale, della giustizia sportiva, che siano sanzionati come meritano. Fa riferimento. Vedremo, vedremo come saranno sanzionati. Chiarissimo. Che magari per farci un'idea con chi ne sa di più di noi. Anche Filippo, sentiamo Filippo. Sì. 800 24 00 24. Filippo, buonasera. Sì, sono qui, buonasera. Prego. Ciao Filippo. Io purtroppo sono un tifoso, ma di quelli che non partecipano da domenica al campo sportivo, e chiaramente voglio stigmatizzare tutto quello che è successo prima della partita, già in settimana, con i commenti che facevano prevedere a cosa si sarebbe andato incontro, insomma. Soltanto che poi, ecco, c'è una parte di informazione che tende ad distorcere tutto quello che è avvenuto. Cosa è stato distorto, Filippo? Perché noi siamo qui, ci aiuti a capirlo. Sì, a me sembra tutto abbastanza chiaro, però siamo qua per capire. Per l'amor di Dio, non è nelle mie intenzioni dare un parere edulcorato rispetto a quello che è successo, ci mancherebbe altro. Ormai a tutti i livelli il calcio è vittima di minoranze che purtroppo sono fastidiose, sono noiose, se non addirittura aggressive e così via, insomma. Io però adesso rispondevo anche a Fabrizio Bocca su Repubblica, il quale parlava in un video intervista di minacce di morte ai calciatori, e io penso che prima appunto di arrivare a diffondere messaggi del genere bisogna andarci cauti in questo senso, perché c'è la magistratura che indaga, certo. Ci sono testimonianze. Però scusami Filippo, se adesso io parte lo conosco bene Fabrizio Bocca, insomma penso che se... Se ha detto una cosa del genere perché ci avrà lavorato in queste ore, e magari qualcuno che vuole rimanere anonimo però avrà detto che queste minacce ci sono state, poi... Non lo so, No, ma io sono d'accordo con te che è grave dire che ci sono state minacce se non ci sono state, ma immagino che sia stata fatta una verifica. Tantissimo, tantissimo, non ho ammaticato. È quello che io vorrei e potrei fare da cittadino di Cerro Inferiore, da tifoso, da rappresentante di uno sport minore, quale il calcio a 5, che io da anni in città porto avanti e cerco di sensibilizzare, soprattutto i più giovani, hanno un atteggiamento, una cultura sportiva che manca da anni e che negli ultimi... Filippo, ti fermo un attimo, voi lo sapevate che sarebbe finita così? In città si sapeva? I giocatori della mia squadra, alcuni giocatori della mia squadra che sono dei tifosi ma sono anche minorenni, fomentati da alcuni ultras che sono conosciuti sia dalla società che dalle forze dell'ordine, avevano già da giorni intenzione di non far disputare questa partita. Ma lo sapevano tutti. Sapeva, a Salerno lo sapevano. Il questore che prima aveva dato il via libera per la partita e poi aveva revocato questa disposizione sapeva quello che sarebbe successo. Ma la stessa società, Nocerina Calcio, sa benissimo chi è questa minoranza che ha impedito oggi, ma ha impedito in passato talune attività sportive. Si conoscono i nomi, si conoscono le persone, si sa chi sono. Io mi chiedo perché non si voglia intervenire in maniera anche decisa, netta, per debellare una volta per tutte, anche se io ho perso le speranze in questo perché momento. Perché evidentemente Filippo fa comodo, questa è la mia interpretazione, allora diciamo questo, e l'abbiamo detto, fa comodo in Lega Pro, fa comodo in Serie B, in Serie A. Sì, o comunque non si trova il coraggio, perché per risolvere questo problema cioè non è che lo risolvi con le campagne di sensibilizzazione. Quelle sono cose bellissime che nel giro di 10 anni magari ti possono dare dei risultati dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista pratico, siccome questo problema non riguarda ovviamente soltanto Nocera ma riguarda a diversi livelli un po' tutto il calcio italiano, significa entrare in ogni situazione, togliere privilegi, applicare le leggi, essere inflessibili, e questo certe volte è un po' complicato. Comunque, scusa, no? Pierre, io ho visto adesso le immagini, secondo me anche chi si è prestato alle sceneggiate per farsi sostituire sinceramente va punito. Si può far passare, con tutta la solidarietà, ma non si può far passare quello che è successo oggi. Saluto José Altafini. Ciao, oh, Josinho. Ciao Pierre, cioè, tu sei quello dell'orologio? Perché siamo in ritardo di 10 minuti, ma hai visto che è successo? No, volevo dire che sei dell'orologio, fai tic-tac. Ah, tic-tac. Come stai? Tutto bene? Tutto bom? Tutto bene, sono in procinto di fare la partita Gremio e Cruzeiro. Gremio e Cruzeiro, allora ti chiedo subito come finisce Gremio Cruzeiro e anche come finisce Juve-Napoli. Siamo interessati a Gremio Cruzeiro. Gremio Cruzeiro, penso che... credo che sia l'ultima opportunità, perché penso che Cruzeiro vincerà il campionato questa sera. Per quanto riguarda Juve-Napoli è un po' difficile da dire, perché sono due squadre che stanno molto bene in questo momento qua, un leggero vantaggio per la Juventus perché gioca in casa. Ma secondo te in questa diatriba fra Benitez e Conte, che dicono no sei più bravo tu, no sei più forte tu, no lo devi vincere tu, no sei più forte tu, hai fatto più mercato, hai speso più soldi, è un po' il gioco delle parti, mi pare, no? Ognuno ci tiene a togliere pressione alla sua squadra dicendo che è più forte l'altra, che è più pronta l'altra. Chi ha ragione? Chi è la vera favorita? Nessuno dei due ha ragione, perché io penso che devono solo pensare di vincere e basta, invece di dire come va più forte, come sono più forti, come hanno speso dei soldi, ma sono tutte banalità questa qua. Io penso che devono badare al sodo, giocare la partita, perché tutti e due vogliono vincere, magari saranno convinti di vincere tutti e due, e così è più bello. Il calcio è bello perché è semplice, se loro fanno diventare le cose più complicate diventa più brutta, e vale la banalità. Restiamo semplici, fra Higuain e Tevez, chi preferisci, chi questa sera la vince, chi la decide, chi è più decisivo? Uno è tecnico, giocatore di manovra, l'altro è un giocatore di una potenza incredibile, generoso, amato dal pubblico, a parte che sono tutti e due amati dal pubblico, però il Tevez è uno che si fa volere molto bene, perché è un generoso, lotta molto, e il pubblico, i tifosi vogliono vedere lottare. Se dovesse dire scegliere tra i due, direi che più tecnico è Higuain. Ho l'impressione che non rimpiangano più Pier a Napoli, Cavani. Io ho dato un'occhiata anche ai numeri, io lo dico da agosto, che il Napoli ha fatto un'operazione interessante, di quelle in cui ci ha guadagnato, anche facendo partire Cavani. Però mi sembra che questo Higuain sia il giocatore giusto per il calcio italiano, José. Sicura, sicuramente sì, è un giocatore anche di aiuto, di manovra, è un grande, è uno che sa approfittare bene delle situazioni. E non dimentichiamo che Napoli è una squadra che fa molto casino. Se Napoli fosse dalla cintura in su, fosse una squadra più forte, potrebbe sicuramente direi che potrebbe vincere il campionato. Però la difesa del Napoli lascia sempre a desiderare qualcosa, dove la Juventus ha vinto 2 anni con una difesa molto forte. Però in attacco tutti e due sono fortissimi, perché sia la Juventus che il Napoli fanno molte occasioni da gol. E se fanno tante occasioni da gol il Napoli, sicuramente Higuaín è quello che si usa di più. È un po' la tua partita del cuore, Giuseppe. Io sono stato tante volte con Giuseppe a Napoli, cuore in grado, non glielo dice più nessuno, lo amano e basta. Però insomma. Ogni tanto lo dicono, però ancora. È una partita del cuore, ma non il cuore in grado, però. Ti aspettavi il mezzo passo falso della Roma? Cambia qualcosa nell'approccio questa sera? Ma guarda, io penso questo, che quando io ho visto la classifica stamattina, guardavo che il Sassuolo ha fatto un po' di risultati ottimi, l'ho visto giocare anche molto bene, ha pareggiato col Torino, con chi ha pareggiato l'ultimo, non mi ricordo più, con la Sampdoria, no? Sì. Sì. Ha vinto a Genova, sì, con la Sampdoria, no, 4-3. Ha vinto a Genova, ha fatto dei risultati, ha fatto un recupero molto interessante. E la Roma in questo momento qua, mancando di Totti e anche di Gervinho, è una squadra che più o meno è come Napoli. Se loro a gennaio non fanno un paio di acquisti, sia Napoli che la Roma, sarà molto difficile tirare il campionato della Juventus. Grazie Giuseppe. Buon Brasile Rao, eh? Buon Cruzeiro. Ciao, amico. Un abbraccio per voi, un abbraccio. Quindi, ciao, ciao. Quindi questa sera abbiamo il campione brasiliano. Come? Questa sera abbiamo il campione brasiliano. Dovrebbe esserci il Cruzeiro, che è la squadra più regolare del torneo. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo. Ciao, buon lavoro. Ciao amico mio. Scrive un amico: lo volete capire che al sud è tutto in mano alla criminalità? Lo Stato e le forze dell'ordine sono conniventi. Venite a vedere che cosa è venite questo. A vivere voi in questo cesso più cesso, cesso dell'Italia, più cesso dell'Italia. Io però insomma continuo a pensare che va bene, si possono fare discorsi sociologici, politici, però quelle scene non possono passare senza un segnale forte, anche perché devo dire magari ingiusto, da questo però punto forte. Da questo punto di vista c'è, cioè, quello delle connivenze fra un certo tipo di ultra, io poi sono sempre molto attento a non generalizzare, perché l'ho detto recentemente, secondo me nel mondo ultra ci sono anche degli elementi che sono elementi di socializzazione, di solidarietà, non è che bisogna buttare e criminalizzare tutto a prescindere, non è che le curve siano composte da delinquenti e le tribune da persone per bene in maniera così a 360 gradi, questo è un concetto che non deve assolutamente passare, però ovviamente poi quando succedono cose come quella di oggi non si possono fare sconti. Ecco, da questo punto di vista devo dire che anche c'è un messaggio di un ascoltatore da Belluno che dà solidarietà piena ai giocatori della Nocerina e che dice: con la vita laggiù non si scherza. Mi sembra che da questo punto di vista, per quanto riguarda il fenomeno ultra, non è che ci siano poi grandi differenze fra nord e sud, insomma mi sembra che sia un elemento abbastanza collettivo e complessivo, sul quale insomma da tanti anni si discute, e mi sembra che l'unica cosa che si riesce a fare sono dei provvedimenti tipo la tessera del tifoso, tipo, cioè, come se tu chiudi le autostrade e poi fai quello figo che dice: non ci sono stati incidenti stradali, grazie, hai chiuso le autostrade. Ecco, mi sembra che sinceramente, al di là del fatto che il numero di incidenti degli ultimi anni, come dice l'osservatorio, sicuramente è diminuito e questa è una buona notizia, però bisogna saper fare anche una lettura di tutto questo, perché quanti incidenti in meno ci sono stati semplicemente con dei provvedimenti di repressione? E allora poi è chiaro, se tu fai lo stadio, lo fai diventare un teatro, giochi a porte chiuse, poi gli incidenti non ci sono, però l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è poter vedere Salernitana Nocerina in uno stadio di 20.000 persone con 18.000 tifosi della Salernitana, 2.000 della Nocerina, civili, e questo è l'obiettivo. Il risultato finale che dobbiamo raggiungere è questo, e il ritorno a Nocera al contrario. Ulisse, provincia di Caserta, 800 24 00 24. Buonasera Ulisse. Buonasera, grazie. Prego. Per farmi intervenire. Io però vorrei farvi un piccolo appunto, se posso. Certo, devi. Io chiamo la Casal di Principe, un paese insomma un po' come Nocera, un paese un po' particolare. Sì. Però volevo dire una cosa, a me tutto questo accanimento adesso nei confronti dei tifosi della Nocerina da puzza un poco, nel senso che circa un mese fa è stato preso un provvedimento contro i tifosi del Milan, contro la curva del Milan. Sì. Ora è stato preso un provvedimento però all'acqua di rose, nel senso che è bastato che tuonasse il vicepresidente, l'amministratore del Milan, Gagliani, ed è stato fatto un passo indietro. Si è cambiata una regola in corsa, si è cambiata. Sì, però questo, Ulisse, scusa, finisco. Dici. I, tifosi della Roma 8 anni fa fecero fermare un derby, non pagarono assolutamente nulla, zero, proprio perché qui a me mi sembra che sono sempre provvedimenti che contro i deboli. Io il signore forse era Bocca, ora non mi ricordo, quello che ha parlato prima all'inizio di questo, sì, nuovo blocco, non era Bocca, anche ingiusto, Ghirelli, però Ghirelli. Bisogna prendere un Francesco Ghirelli della Lega, sì, Pro, sì. Anche ingiusto, ma un provvedimento forte, cioè io noto che sempre contro i deboli si deve andare, nel senso che i tifosi della Nocerino hanno fatto, è per certo che gliel'abbiano detto i tifosi di non presentarsi, di questo sono strasicuro anch'io, non è che mi nascondo con la testa. A meno che non vogliamo raccontarci che hanno deciso loro, però secondo me perdiamo tempo. Su questo non c'è ombra di dubbio, però quello che dà fastidio è adesso tutta questa reazione, questa prosopopea, frasi fatte contro adesso i tifosi della Nocerina. I tifosi della Nocerina sono stati puniti, non dovevano andare a Salerno, 15 chilometri di autostrada non potevano andare a Salerno. I tifosi del Milan, se erano tifosi del Milan, della Juventus, si cambia la regola. Ma guardi, ero qui e abbiamo fatto intere puntate su quello che succedeva con i tifosi del Milan, con la discriminazione territoriale. Non ero qui perché non ero in questa radio l'anno scorso, ma quando c'è stato l'episodio del Genoa con la riconsegna delle maglie se ne è parlato lungamente. Insomma, io sono d'accordo, certamente non è che si deve fare figli e figliastri su questo, però insomma oggi è successa questa cosa ed è normale che se ne parli. Poi da questo punto di vista lo dico veramente con affetto, io credo che non ci si debba mai dividere fra tifosi del nord e tifosi del sud, tifosi della Roma e tifosi della Lazio. Qui la sostanza è che c'è una grande maggioranza di persone che vogliono vivere il calcio in maniera seria in qualsiasi parte d'Italia, e non possono perché sono ostaggio di una serie di situazioni che non glielo fanno vivere. E questi tifosi saranno della Roma, della Juve, del Napoli, della Nocerina, della Salernitana, sono tutti dalla stessa parte. Cioè, i tifosi per bene che vorrebbero semplicemente assistere a questo spettacolo sono tutti dalla stessa parte. Poi ripeto, la situazione non la conosciamo, probabilmente non c'erano gli elementi per vietare la trasferta. Una partita nella quale i tifosi non possono andare a 15 km di distanza è una sconfitta per tutti, quindi siamo credo i primi a essere rammaricati di una cosa del genere, sì, però e solidali anche a rispettare, con i tifosi per bene della Nocerina che potevano andare a Salerno. Se c'è un prefetto che ti dice che è così, alla fine l'hai accettato. Francesco da Nocera Inferiore. Buonasera. Senti, io volevo dire una cosa molto antica. Sì. La Nocerina gioca il pallone alla squadra della Nocerina del 1905, il Napoli del 1908. Sì. Quindi quello che è capitato adesso è capitato già 70 anni fa, capitavano queste cose alla Nocerina. Quindi sono questi tifosi, mancanza di cultura, non lo so come si può descrivere questa cosa, ma non è che solo a Nocera, a Sarno, dopo guerra, l'arbitro prima li fecero tirare il carrette e poi lo impiccarono. Questo, io mi vergogno di parlare perché nella Nocerina è vergognoso questo che fanno tutte questa tifoseria, e li fanno meno male Pier che non c'è di mezzo il carretto. No, ma assolutamente, guardi, veramente lo ripeto per l'ennesima volta, non bisogna scendere mai dal punto di vista del campanile. Cioè è successo a Nocera, è successo altre volte in altre città, in altri luoghi, siamo tutti dalla stessa parte. Se vogliamo risolvere il problema dobbiamo essere tutti dalla stessa parte. Massimo rispetto per Nocera, per il sud io sono disposto a fare il testimonial, girerei per il sud per mesi all'anno, per quanto mi piace girare da una parte e dall'altra, quindi sono il primo che si incazza quando sente tutta una serie di luoghi comuni, quindi assolutamente. Però insomma oggi è successa questa cosa a Nocera Inferiore e ne parliamo, così come ne parlavamo quando è successo il derby sospeso a Roma o i cori che ci sono stati a Milano, la chiusura delle curve. Dobbiamo capire che non è campanilismo, e non dobbiamo neanche metterci secondo me a valutare le sanzioni, ma quelli hanno fatto questo, a quelli hanno fatto quello. Qui l'interesse di tutti è che si facciano delle cose per risolvere il problema, per poter giocare Salernitana, Nocerina e qualsiasi altra partita ad alto rischio in un clima sereno. E questo è l'obiettivo, se ci piace questo gioco, altrimenti ci va bene così e allora dovremo semplicemente stare attenti e chiuderci in casa se per caso abitiamo davanti allo stadio nel giorno in cui ci sarà la partita, e stare attenti e venire privati delle nostre libertà individuali. Però è veramente triste in tanti quartieri d'Italia. È veramente leggi cosa scrive Paolo: chi non segue il calcio vive meglio, perché il calcio divide, fa nascere l'odio tra le persone. Poi Walter: non prendiamoci in giro, si conoscono nomi e volti dei delinquenti da stadio. Questo secondo me è un punto importante, si conoscono, li conoscono le società, e non solo a Nocera Inferiore, a Salerno, anche dirigenti di squadre di Serie A, tutti conoscono tutti. E qui secondo me c'è la grande colpa, perché il calcio non ha fatto nulla per emendarsi da queste situazioni, in parte le ha sfruttate in passato e adesso è difficile liberarsene. Enrico da Milano: niente, è caduta la linea, è difficile emendarsene adesso, perché sì, adesso sei sotto ricatto, perché sì, adesso anche perché comandano loro. La vicenda della discriminazione territoriale è assolutamente emblematica di tutto questo, nel senso che improvvisamente quest'estate si è deciso, cambiano le norme, però non se ne era accorto nessuno, non l'aveva capito nessuno fino in fondo, per cui dei cori beceri, ma che fino all'anno scorso venivano tollerati in certi casi addirittura come folklore da alcuni, sono diventati improvvisamente forieri di tutta una serie di sanzioni pesantissime. E subito è stato trovato l'inganno, no? Si è tornato indietro, da un certo punto di vista anche con buon senso, perché non è che si poteva dare questo potere di ricatto. Però allora o si mette un punto e si decide che si interviene in maniera puntuale su chi causa questi problemi, e ti dico di più, si coinvolgono, io penso che il tifo organizzato lo devi quasi coinvolgere, lo devi portare ad avere quasi un ruolo. No, io sono da questo punto di vista per la tolleranza zero. Io ad esempio trovo surreale che a Torino, nel primo stadio di proprietà italiano, quindi con il modello inglese, tedesco, tutto quello che vogliamo, la curva continui ad avere i posti in piedi. Io sono per la responsabilizzazione e poi per la tolleranza zero. Allora, però abbiamo parlato per anni con gli stadi di proprietà, sarebbe arrivata finalmente che le curve sarebbero state non più un territorio figlio di nessuno. A Torino più o meno funziona così, e non sto generalizzando sulla tifoseria della Juventus, per favore cerchiamo di capire bene il discorso. Il problema è che in Italia questo problema non viene affrontato in maniera corretta. Domenico, da Foggia. Sì. Buonasera, io mi allaccio, sono sulla stessa lunghezza d'onda dell'amico che ha parlato prima. Praticamente secondo me è lo stesso problema, cioè questi facinorosi sono conosciuti prima che l'evento avvenga, vengono sono conosciuti dalle forze dell'ordine e non si fa nulla per fermarli, poi paga sempre tutta la povera gente perché non si ha il coraggio di affrontare la questione direttamente a monte, quindi basta allontanare questi 10-15 persone che comandano questi facinorosi, si conoscono perché ognuno va allo stadio con il biglietto nominale, e non capisco perché debba pagare tutta l'intera città. Vengono minacciati i giocatori poverini che non hanno nessun... io vorrei far capire, vorrei far mettere nei panni quei giocatori, due giorni prima, tre giorni prima, l'ultimo giorno, subiscono minacce da parte di facinorosi, e poi in campo sono costretti, minacciati, sanno che ne va di mezzo qualcosa. Sì, però è più dignitoso dire noi non giochiamo piuttosto che prestarsi. Io non so, però, chi però non ha visto le immagini le guardi. Volevano non giocare? Sì, però piuttosto tu scioperi e ti rifiuti, fai un atto forte di protesta. Io quello che si è visto oggi è inaccettabile. Chi non ha visto le immagini, io lo invito questa sera, trovi modo di vederle. Sono vomitevoli le immagini fuori dallo stadio, ma guardate che quello che è successo in quei 20 minuti è una farsa, Pier, inaccettabile. No, inaccettabile. Va detto che da quello che ci risulta, la Nocerina, che infatti è rimasta bloccata, non ha fatto il riscaldamento in campo, non l'ha fatto proprio perché si era chiusa nello spogliatoio discutendo e non volendo giocare la partita, insomma. Vabbè. Proviamo a ritagliarci uno spazietto per parlare di calcio giocato. Dici che c'è Juve-Napoli stasera? C'è Juve-Napoli stasera. Partitina così, diciamo. Io saluto Massimiliano Nerozzi, inviato della Stampa. Ciao Max. Massimiliano. Ciao, buonasera a tutti. Però ti devo chiedere 30 secondi di pazienza per il traffico. Ma non c'è problema, guarda, la partita inizia fra un'ora e mezza. Poi ci dici com'è il traffico fuori dallo Juventus Stadio. Eccoci allora, Massimiliano Nerozzi, inviato della Stampa. Hai capito come se la gioca la Juve? Oggi leggevo ancora di un'ipotesi tra Pogba e Marchisio, di Conte, con le idee ancora non chiarissime. Ma guarda, da quello che ho capito io, nella rifinitura ha giocato Pogba con la canotta gialla e quindi dovrebbe essere il titolare. Solitamente nella rifinitura non si sbaglia, infatti all'ora di pranzo del Real Madrid, martedì giocò Asamoah, infatti Asamoah fu titolare, quindi direi che Pogba giocherà, cioè partirà dalla panchina, a meno di ripensamenti, ma mi sembra già tardi. È una partita che ha cambiato pelle dopo il pareggio della Roma? Tu che conosci bene l'ambiente della Juve. Ma guarda, la Juve era già abbastanza determinata, soprattutto Conte è stato addosso ai giocatori appena finita Real Madrid, perché insomma sente che battendo il Napoli si scronerebbe di dosso un avversario, ovviamente non definitivamente, che è tanto presto, ma la psicologia tra queste tre squadre penso conterà tanto e conta anche per gli allenatori. È cambiato qualcosa dopo Firenze? Ho la sensazione che da Madrid in poi ci sia stato completamente un altro atteggiamento, un'altra ferocia, no? L'aggressività, l'intensità di cui parlavamo tanto gli anni scorsi mi sembra sia tornata. Guarda, sì, sembra retorica se lo diciamo noi, se lo dicono i giocatori, però effettivamente c'erano molti juventini che auspicavano che la sconfitta di Firenze potesse essere come quella dell'Inter l'anno scorso in casa, ricorderete. Se tu parlavi con i giocatori, anche diciamo fuori dalle virgolette, ti dicevano che inconsciamente un po' c'era questa presunzione quest'anno della Juve, che tanto prima o poi la porta a casa, poi non succederà così. E forse a Firenze si sono talmente scottati che si sono detti: se non ci diamo una svegliata, lo scudetto non si vince. Cosa che disse Conte già negli spogliatoi del Franchi. Sì, a sorpresa però io vedo Conte sempre abbastanza elettrico, non dico nervoso, perché poi sono anche ruoli che si interpretano alla vigilia di partite importanti, però anche ieri mi è sembrato che Benitez abbia in fondo fatto una provocazione innocente e Conte ha risposto col bazooka. Sì, però io penso che ormai sia un essere di Conte, cioè lui un po'... Cioè dobbiamo tenercelo così? No, sì, no, guarda, io non so, mi sembra lui tagliato per fare il rivoluzionario, il sovversivo nel calcio, sta all'opposizione, è al governo da 2 anni meritatamente, ma fa veramente fatica a gestire questa situazione, si trova molto più a suo agio a fare il guastatore, non so, per esempio le 2 migliori partite di quest'anno le ha fatte contro Real Madrid, che è la squadra nettamente più forte che ha affrontato. E si trova bene, e anzi non vedo l'ora di puntare sugli altri, come è stato Benitez ieri, quello che l'anno scorso si è trovato addosso, ovvero l'etichetta del strafavorito. Io poi sono curioso di ma poi sono fantastici, sì, dai, no, io ieri mi sono divertito tantissimo, sì, mi ha riportato dietro a Mourinho, a quei bei duelli verbali che infiammano le vigilie di queste partite. Io poi sono curioso un giorno che Conte spieghi perché ad esempio non ha fatto la stessa operazione del Napoli, che in fondo ha venduto in 2 anni Lavezzi e Cavani, e così si è pagato questa faraonica campagna acquisti da 90 milioni di euro, ma prima o poi lo sapremo. Grazie Max. Appunto, avrebbe dovuto vendere Vidal. Sì. E poi la campagna in entrata la faceva anche lui. 60 milioni non li facevi, eh? No, però, insomma, bisogna anche dire che non è che il Napoli li ha trovati per strada quei soldi. Grazie, no, Max. No. Sì, scusa, chiudo. Sì. È vero, per concludere il tuo un'argomentazione che Conte, giustamente, tira col suo mulino, ma se si parla di Fiorentina rinforzata o Napoli rinforzato, il Napoli, come dicevi tu, ha venduto Cavani, la Fiorentina ha venduto Jovetic. La Juve è stata l'unica che di pezzi grossi non ne ha venduti, insomma abbiamo parlato di Matri e Zaccherini, che con tutto il rispetto per espressa volontà di Conte è legittimo, giusto, probabilmente come ragionamento, però è anche legittimo ricordarlo. Grazie Max. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ciao. A Massimiliano Nerozzi della Stampa. Abbiamo 4 minuti perché oggi è finito anche il mondiale di MotoGP. Io saluto il più grande di tutti, Giacomo Agostini. Buonasera Agostini. Buonasera a tutti voi. Più grande di tutti, anche se oggi ho letto, anche soprattutto sulla stampa spagnola, ma non solo, che questo record di precocità di Marquez apre una carriera che probabilmente lo farà diventare il numero uno. È un predestinato? Beh, senz'altro ha fatto un'annata meravigliosa, ha vinto il primo anno al debutto con la MotoGP, quindi è da temere per il futuro anche. Cosa vuol dire vincere il primo anno? Perché è così difficile? In fondo uno dice: hai la moto che va, hai il talento, perché fin qui non c'era riuscito praticamente nessuno? Beh, innanzitutto è uno molto bravo, quindi ha imparato in fretta, ma vorrei dire anche un'altra cosa che per l'amor di Dio non voglio che sia a suo svantaggio, però oggigiorno direi che con l'elettronica ti porta molto più velocemente ad imparare, ti porta molto più velocemente a essere coi primi che hanno tanta esperienza. Insomma, l'elettronica un po' ti aiuta. Con questo non voglio dire che poi il talento ci voglia. Lui è stato bravissimo, ha fatto un anno meraviglioso, primo anno, appunto, come ho detto prima, vincere il titolo non è da tutti, quindi senz'altro è destinato a vincerne ancora. Che lettura diamo della stagione di Valentino? Beh, insomma, Valentino non è andata male, certo. Valentino, tutti ci aspettiamo la vittoria, cioè, quando noi parliamo di Valentino pensiamo al gradino più alto del podio. Invece purtroppo è stata molto più dura del previsto. Naturalmente, ma lo sa anche lui, gli anni passano, i ragazzi giovani. Questa scelta di separarsi da Barges suona un po' come l'ultimo tentativo di provare a dare una svolta. Ma credo che non sia. Insomma, adesso lui senz'altro così si vede che non si trovava più, è giusto cambiare per trovare qualcosa, ma naturalmente non è che sia il capo meccanico che ti dia la vittoria, insomma. Grazie Giacomo Agostini. Grazie a voi. Grazie no. Giacomo Agostini, purtroppo soltanto un paio di minuti. Marquez è un fenomeno, segnerà un'epoca nella MotoGP, però vedi, questa è colpa degli ultra della nocerina, caro Pier. Dai, abbiamo finito, dammi il tuo pronostico su Juve-Napoli. Per me finisce 2-1 per la Juve, ma insomma io sui pronostici sono scarsissimo e quindi insomma invito nessuno a giocare nemmeno mezzo euro su questa mia previsione. Credo la Juve sia lievemente favorita essenzialmente per il fattore campo e perché mi sembra, come dicevamo prima, che abbia ritrovato un po' di ferocia. Però insomma il Napoli di Benitez è un'altra cosa rispetto al Napoli di Mazzarri. Ancora non ho capito esattamente che dimensione può prendere questa squadra. Stasera secondo me sarà un primo test per capire da che parte andrà a finire. Ci fermiamo qui. Io ringrazio e saluto Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Filippo Aureggi e Fabio Cantadori che si sono alternati dietro al vetro. Saluto anche te, l'appuntamento domani alle 14:05. Chiaramente, come col tradizione. Dottor, col dottor Genta. Torna al titolare. Tonico col signor Genta. Dai, noi ci risentiamo invece domenica alle 17, anche se non c'è la Serie A, dalle 17 alle 19 tutti convocati il weekend. Non c'è la Serie A domenica. Non c'è la Serie A. Saluto anche da Giovanni Capuano. Si può passare direttamente al 24, no, non si può. Queste pause le odio. Vabbè. Non si può. Ciao. Grazie, baci e pace bene a tutti.